Ad alta voce. Maria Paiato legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Si immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di 16.000 appestati. Quello spazio tutto ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente. Quelle due interminate fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di languenti o di cadaveri confusi, sopra sacconi o sulla paglia, e su tutto quel quasi immenso covile un brulichio, come un ondeggiamento. E qua e là un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chinarsi, un alzarsi di convalescenti, di frenetici, di serventi. Tale fu lo spettacolo che riempì a un tratto la vista di Renzo e lo tenne lì, sopraffatto e compreso. Questo spettacolo noi non ci proponiamo certo di descriverlo a parte, né il lettore lo desidera. Solo seguendo il nostro giovine nel suo penoso giro, ci fermeremo alle sue fermate e di ciò che gli toccò di vedere diremo quanto sia necessario a raccontar ciò che fece e ciò che gli seguì. Dalla porta dove s'era fermato fino alla cappella del mezzo e di là all'altra porta in faccia c'era come un viale sgombro di capanne ed ogni altro impedimento stabile, e alla seconda occhiata Renzo vide in quello un tramenio di carri, un portar via roba per far luogo. Vide cappuccini e secolari che dirigevano quell'operazione e insieme mandavan via chi non ci avesse a che fare, e temendo d'essere anche lui messo fuori in quella maniera si cacciò addirittura tra le capanne, dalla parte a cui si trovava casualmente voltato alla diritta. Andava avanti, secondo che vedeva posto da poter mettere il piede, da capanna a capanna, facendo capolino in ognuna e osservando i letti che erano fuori allo scoperto, esaminando volti battuti dal patimento o contratti dallo spasimo, o immobili nella morte, semmai gli venisse fatto di trovar quello che pur temeva di trovare. Ma aveva già fatto un bel pezzetto di cammino e ripetuto più e più volte quel doloroso esame senza veder mai nessuna donna. Onde si immaginò che dovessero essere in un luogo separato e indovinava, ma dove fosse non aveva indizio né poteva argomentarlo. Incontrava ogni tanto ministri, tanto diversi d'aspetto e di maniere e d'abito, quanto diverso e opposto era il principio che dava agli uni e agli altri una forza uguale di vivere in tali servizi. Negli uni l'estinzione d'ogni senso di pietà, negli altri una pietà sovrumana. Ma né agli uni né agli altri si sentiva di far domande per non procacciarsi alle volte un inciampo, e deliberò d'andare, andare, finché arrivasse a trovar donne. E andando non lasciava di spiare intorno, ma di tempo in tempo era costretto a ritirare lo sguardo contristato e come abbagliato da tante piaghe. Ma dove rivolgerlo? Dove riposarlo che sopra altre piaghe? L'aria stessa e il cielo accrescevano, se qualche cosa poteva accrescerlo, l'orrore di quelle viste. La nebbia s'era a poco addensata e accavallata in nuvoloni che, rabbuiandosi sempre più, davano idea d'un annottar tempestoso. Se non che verso il mezzo di quel cielo cupo e abbassato traspariva come da un fitto velo la spera del sole, pallida, che spargeva intorno a sé